ad alta voce. Enzo Turrin legge Jacob von Gunten di Robert Walser. Traduzione di Emilio Castellani. Prima puntata. Qui si impara ben poco, c'è mancanza di insegnanti e noi ragazzi dell'Istituto Beniamenta non riusciremo a nulla. In altre parole, nella nostra vita futura saremo tutti qualcosa di molto piccolo e subordinato. L'insegnamento che ci viene impartito consiste sostanzialmente nell'inculcarci pazienza e ubbidienza, due qualità che promettono poco o nessun successo. Successi interiori magari sì, ma che vantaggio potremo trarne? A chi danno da mangiare le conquiste spirituali? A me piacerebbe essere ricco, andare in giro in carrozza e aver denaro da buttar via. Ne ho parlato a Kraus, il mio compagno di scuola, ma lui non ha risposto che con una sprezzante alzata di spalle e non mi ha degnato di una parola. Kraus ha dei principi. Sta ben saldo in sella, a cavalcioni della sua contentezza, e questo è un cavallo su cui chi vuole andare di galoppo preferisce non salire. Da quando mi trovo qui all'Istituto Beniamenta sono già riuscito a diventarmi enigmatico. Mi sono sentito anch'io invadere da un senso strano, finora sconosciuto, di contentezza. Sono abbastanza ubbidiente, non al punto di Kraus, che è imbattibile nel precipitarsi a eseguire zelantemente gli ordini. Sotto un solo aspetto, noi scolari, Kraus, Schacht, Schilinski, Fuchs, Pietrone, io, eccetera, ci assomigliamo tutti nel fatto di essere assolutamente poveri e in sottordine. Siamo piccoli, piccoli fino a sentirci spregevoli. Chi ha in tasca un marco da spendere lo si guarda come un principe privilegiato. Chi come me fuma sigarette desta preoccupazioni per le sue abitudini spenderecce. Andiamo vestiti in uniforme. Ebbene, questa circostanza di portare un uniforme ci umilia e nello stesso tempo ci esalta. Abbiamo l'aspetto di uomini non liberi e ciò può essere una mortificazione, ma abbiamo anche un aspetto elegante, il che ci preserva dalla profonda vergogna di coloro che se ne vanno attorno in abbigliamenti personalissimi, ma strappati e sudici. A me, per esempio, il vestire l'uniforme riesce assai piacevole, dato che sono stato sempre incerto su come vestirmi. Ma anche questo mio aspetto mi riesce per ora enigmatico. Forse in fondo a me c'è un essere estremamente volgare. O forse invece ho sangue azzurro nelle vene. Ma una cosa so di certo. Nella mia vita futura sarò un magnifico zero, rotondo come una palla. Da vecchio sarò costretto a servire giovani tangheri presuntuosi e maleducati, oppure farò il mendicante, oppure andrò in malora. Noi altri allievi o alunni abbiamo in verità assai poco da fare, non ci danno quasi mai compiti. Impariamo a memoria i precetti che vigono qui dentro. Oppure leggiamo il libro Quale meta si propone la scuola per ragazzi beniamenta? Kraus poi studia anche il francese, esclusivamente per conto suo, dato che le lingue straniere o roba del genere non figurano nei nostri programmi scolastici. Qui non c'è che un'unica lezione, sempre ripetuta. Come deve comportarsi un ragazzo? E tutto l'insegnamento gira in sostanza intorno a questa domanda. Quanto a nozioni, non ce ne impartiscono per niente. C'è infatti, come ho già detto, mancanza di professori, o per meglio dire, i signori insegnanti e maestri dormono, oppure sono morti, o solo morti apparenti, o forse sono pietrificati. Comunque, sta di fatto che da loro non ci viene nulla. In luogo degli insegnanti, che per motivi strani quanto imprecisabili se ne stanno letteralmente sdraiati come morti a sonnecchiare, chi ci dà lezioni e ordini è una giovane donna, la signorina Lisa Beniamenta, sorella, del signor direttore dell'istituto. Entra in aula e sale sulla cattedra con in mano una bacchetta bianca. Quando noi la vediamo entrare, ci alziamo tutti dai nostri posti. Appena lei si è seduta, ci mettiamo a sedere anche noi. Lei picchia sul bordo del tavolo 3 secchi colpetti imperiosi e la lezione incomincia. E che lezione! Eppure mentirei se dicessi che è strana. No, io trovo che quello che la signorina Beniamenta ci insegna è degno di considerazione. È poco, e noi non facciamo che ripetere. Ma forse c'è un segreto dietro tutte quelle fanfaluche e ridicolaggini. Ridicolaggini? Noi ragazzi dell'Istituto Beniamenta non siamo mai di umore ridanciano. I nostri visi e le nostre maniere sono molto seri. Anche Scilinski, che è ancora proprio un bambino, ride molto di rado. Kraus non ride mai, o solo di un riso brevissimo quando non riesce a trattenersi, e poi si arrabbia di essersi lasciato scappare qualcosa di così contrario alle regole. In generale noi allievi non abbiamo voglia di ridere, o per meglio dire, non lo possiamo neanche. Ci mancano quell'allegria, quella distensione che sarebbero necessarie. Oh, mi sbaglio. Parola mia, qualche volta succede che tutta la mia vita qui dentro mi appaia come un sogno incomprensibile. Il più giovane e il più piccolo di noi alunni è Heinrich. Di fronte a questo ragazzo, chissà perché, uno si sente suo malgrado intenerito. Si ferma a guardare le vetrine dei negozi, tutto immerso nella contemplazione delle merci e delle leccornie esposte. Poi di solito entra e si compra qualche soldo di dolci. Heinrich è ancora un bambino, ma parla e si comporta già come un adulto ben educato. I suoi capelli sono sempre pettinati e tagliati alla perfezione, particolare apprezzabile soprattutto per me, che su questo punto importante sono molto trascurato. La sua voce è sottile come un soave cinguettio di uccelli. Quando si va a passeggio o si parla con lui, si è indotti, senza volerlo, a mettergli una mano intorno alla spalla. Piccolo com'è, ha un portamento da colonnello. È privo di carattere perché non sa ancora che cosa sia un carattere. Certamente non ha ancora mai pensato alla vita. E a che scopo del resto? È molto educato, servizievole e gentile, ma senza rendersene conto. Sì, insomma, è come un uccello. Irradia amabilità da tutto il suo essere. Quando dà la mano, è come se la desse un uccello. E come un uccello va, sta, cammina. Tutto in lui è innocente, placido, felice. Dice che vuol fare il paggio, ma lo dice senza smancerie sconvenienti. E in realtà la professione di paggio è quanto di più giusto e di più adatto a lui. Tanta leggiadria di contegno e di sensibilità sembra tendere a una meta imprecisata, ed eccola invece centrare il bersaglio. Quali esperienze farà? Quali esperienze? Quali cognizioni ardiranno accostarsi a questo fanciullo? Non si faranno riguardo le rozze delusioni di turbare la quiete della sua estrema dolcezza? D'altra parte noto in lui un che di freddo, nessuna turbolenza, nessun atteggiamento di sfida. Forse di molte e molte cose che potrebbero abbatterlo egli non si accorgerà neppure, e a molte altre che potrebbero attentare alla sua serenità di spirito rimarrà insensibile. Chissà se ho ragione, ma in ogni caso mi piace moltissimo fare queste osservazioni. Heinrich è fino a un certo punto ottuso, è la sua fortuna e bisogna dargliene atto. Se fosse un principe sarei il primo a piegare il ginocchio davanti a lui e a rendergli omaggio. Peccato. Come mi sono condotto da stupido al mio arrivo qui. Per prima cosa mi scandalizzai dell'aspetto meschino delle scale. Ma sì, sono le solite scale di un qualunque ingresso di cortile in una casa di grande città. Poi suonai il campanello e venne ad aprirmi un essere dall'aspetto scimmiesco. Era Kraus, ma in quel momento lo presi davvero per una scimmia, mentre ora, grazie alla sua personalissima indole, lo stimo molto. Gli chiesi se potevo parlare al signor Beniamenta. «Certo, signore», rispose Kraus e mi fece un grande inchino senza senso. Quest'inchino mi diede una spiacevole sensazione di sgomento. Mi dissi subito che qui c'era qualcosa di non perfettamente normale e da quel momento fui convinto che la scuola Beniamenta era un imbroglio. Fui introdotto dal direttore, come mi viene da ridere se ripenso a quella scena. Il signor Beniamenta mi domandò che cosa volevo. Dichiarai timidamente che desideravo diventare suo allievo, al che egli tacque e si mise a leggere dei giornali. L'ufficio, il direttore, la scimmia di poco prima, le porte, quel modo di tacere e di immergersi nei giornali, tutto questo mi pareva sommamente sospetto e malaugurante. All'improvviso mi sentii chiedere come mi chiamavo e da dove venivo. A quel punto capii di essere perduto, poiché ebbi di colpo la certezza che non sarei più uscito di lì. Risposi balbettando. Osai perfino sottolineare che venivo da una famiglia molto distinta. Dissi fra l'altro che mio padre era un alto consigliere e che io ero fuggito da casa sua per il timore di rimanere soffocato sotto la sua superiorità. Il direttore tacque di nuovo un momento. La mia paura di essere vittima di un inganno si fece più forte che mai. Temetti perfino che mi uccidessero in segreto, che mi strangolassero a poco. Allora, con la sua voce imperiosa, il direttore mi chiese se avessi del denaro e io risposi di sì. «Dallo qui, subito», comandò. E io, strano a dirsi, ubbidii all'istante, anche se già ero sconvolto dalla disperazione. Non avevo più dubbi. Ero caduto in mano a un bandito, a un truffatore. Eppure gli consegnai docilmente i soldi che avevo. Come trovo ridicoli oggi quei miei sentimenti di allora. Il denaro scomparve e tornò il silenzio. Ebbi allora il coraggio eroico di chiedere una ricevuta e la risposta fu: a un discolo come te non si danno ricevute. Stavo quasi per svenire. Il direttore suonò il campanello e subito entrò quella stupida scimmia di Kraus. Stupida scimmia, niente affatto. Kraus è un caro, carissimo amico, solo che in quel momento non lo capivo ancora. Questo è Jacob, il nuovo allievo, portalo in classe. Il direttore non aveva neanche finito di parlare che Kraus mi afferrò e mi trascinò al cospetto della maestra. Certe paure sono davvero infantili. Non c'è comportamento peggiore di quello che nasce dalla diffidenza e dall'ignoranza delle cose. Così entrai fra gli alunni della scuola. Il mio compagno Schacht è un tipo strano. Il suo sogno è di diventare musicista. Mi dice che, grazie alla sua forza di immaginazione, sa suonare stupendamente il violino. E io, se gli guardo le mani, credo che sia vero. Ride spesso, ma poi tutto a un tratto cade in un malinconico languore che si addice in maniera incredibile al suo viso e alle sue movenze. Schacht ha un viso bianchissimo e delle mani lunghe e sottili che esprimono un'inaudita sofferenza spirituale. Esile com'è di corporatura, facilmente si dimena. Gli è difficile rimanere immobile, in piedi o seduto. Somiglia a una ragazzina malaticcia e lunatica. Fa anche spesso il broncio, ciò che più che mai lo rende simile a una femminuccia giovane e un po' viziata. Noi due, io e lui, sovente ci stendiamo insieme sul letto in camera mia, tutti vestiti e senza toglierci le scarpe, a fumare sigarette cosa proibita dai regolamenti. A Schacht piace violare i regolamenti e, detto francamente, piace anche a me. Lì sdraiati ci raccontiamo delle lunghe storie, storie della vita, cioè cose che abbiamo vissute, ma più ancora delle storie inventate, piene di fatti campati in aria. Allora sembra che intorno a noi, su e giù per le pareti, echeggino lievi rumori. La stanzetta buia si allarga. Appaiono strade, saloni, castelli, città, uomini e paesi sconosciuti, si sentono tuoni e sussurri, discorsi, pianti, eccetera. È un divertimento chiacchierare con Schacht quando è in preda a queste fantasticherie. Sembra capire tutto quel che gli si dice e lui stesso ogni tanto dice qualcosa che ha senso. E poi si lamenta spesso. E trovo che questo accresce il fascino della conversazione. Mi piace ascoltare dei lamenti. Si può guardare in faccia quello che si lamenta, facendogli capire che proviamo per lui la più profonda compassione. E Schacht ha in sé qualcosa che desta compassione, anche se non dice niente di triste. Se l'incontentabilità raffinata, insomma, l'aspirazione a qualcosa di bello e di elevato, abita in uno spirito umano, è certo che ha trovato asilo in Schacht. Ha un'anima, Schacht. Chissà, forse è una natura d'artista. Mi ha confidato di essere malato e, siccome non si tratta di una malattia molto dignitosa, mi ha scongiurato di mantenere il segreto. Io, naturalmente, per tranquillizzarlo, gli ho dato la mia parola d'onore. Poi l'ho pregato di mostrarmi in che consistesse la sua malattia. Ma lui allora si è seccato un po' e si è voltato verso il muro. «Sei uno spudorato», mi ha detto. Sovente ce ne restiamo così, senza scambiar parola. Una volta mi azzardai a prendergli pian piano la mano, ma lui me la tirò via e disse: «Che cosa sono queste stupidaggini, sta fermo?» «Schacht preferisce la mia compagnia». Me ne rendo conto, non proprio chiaramente, ma in questo genere di cose la chiarezza è poco importante. Io gli voglio enormemente bene e lo considero un arricchimento della mia esistenza. Ben inteso, non gli parlo mai in questi termini. Fra noi discorriamo di sciocchezze, talvolta anche di cose serie, ma sempre evitando le grandi parole. Non c'è niente di più noioso delle belle parole. Ah, a proposito degli incontri con Schacht in camera mia, un particolare mi viene in mente. Noi alunni dell'Istituto Beniamenta siamo condannati a strani periodi di ozio che durano anche delle mezze giornate. Ce ne stiamo sempre qua e là, rannicchiati, seduti, sdraiati o in piedi. Io e Schacht, per divertirci, spesso accendiamo nella mia stanza delle candele, cosa severamente proibita. Ma proprio per questo troviamo gusto a farlo. Ma che precetti e non precetti, la luce delle candele è così bella, così misteriosa, e che effetto fa il volto del mio compagno quando la fiammella rossiccia lo illumina delicatamente. Quando vedo ardere le candele mi par d'essere un signorone. Fra un momento arriverà il servitore a porgermi la pelliccia. Assurdità, sì, ma sono assurdità dalla bella bocca sorridente. Per la verità, i lineamenti di Schacht sono grossolani, ma il pallore diffuso sul suo volto li affina. Il naso è troppo grande, le orecchie lo stesso, la bocca è grinzosa. A volte, quando guardo Schacht attentamente, mi dà l'impressione di qualcuno a cui le cose andranno molto male. Come mi piacciono quelli che destano un'impressione così malinconica. Che sia amor fraterno, può darsi di sì. Il primo giorno mi sono comportato in maniera scandalosamente schizzinosa e puerile. Mi mostrarono la camera nella quale avrei dovuto dormire in compagnia di altri, e cioè con Kraus, Schlacht e Schilinski, da quarto nella Lega, diciamo. Tutti erano presenti, i compagni, il direttore che mi guardava truce, la signorina. Ebbene, io caddi bellamente in ginocchio ai piedi della fanciulla e gridai: «No, è impossibile che io dorma in questa camera. Qui dentro non posso respirare. Piuttosto vado a dormire in strada». E mentre parlavo, le stringevo forte le gambe. Lei si mostrò irritata e mi ordinò di alzarmi. Io dissi: «Non mi alzerò se lei non mi promette di assegnarmi una stanza da letto degna che vi abiti un uomo. La prego, signorina, la supplico, mi mandi in un altro posto, magari in un buco se vuole, ma non qui dentro. Qui non posso stare. Non voglio offendere i miei condiscepoli, in realtà li ho già offesi e me ne rincresce, ma dormire come quarto insieme ad altri tre e per di più in uno spazio tanto ristretto, oh signorina, non è possibile». Lei sorrideva già, me ne accorsi, perciò aggiunsi in gran fretta, abbracciandola ancor più strettamente: «Sarò un bravo scolaro, glielo prometto, ubbidirò al suo minimo cenno, non avrà mai, mai da lamentarsi della mia condotta». «Davvero?» chiese la signorina beniamenta. «Non dovrò mai lamentarmi di te?» «No, mai, stia sicura, signorina», risposi io. E la scambiò un'occhiata significativa con suo fratello, il signor direttore. Poi mi disse: «Rialzati prima di tutto. Vergogna. Basta con codesto piagnucolare e sviolinare. E dopo vieni con me. Se ci tieni tanto, puoi dormire in un altro posto». Mi condusse alla stanzetta che occupo attualmente, me la mostrò e mi chiese: «Ti piace questa?» Io ebbi l'ardire di risponderle: «È piccola. A casa avevo delle tendine alle finestre e il sole splendeva dentro le camere. Qui non c'è che una lettiera stretta stretta e un lavamano. A casa le stanze erano ammobiliate di tutto punto. Ma non se n'abbia male, signorina beniamenta. Mi piace, la ringrazio. A casa tutto era più curato, più accogliente, più elegante, ma anche qui è molto simpatico. E mi scusi se continuo a fare dei confronti con casa mia e con Dio sa che altro. Ma questa cameretta la trovo proprio carina. È vero, la finestra lassù in cima al muro si può appena chiamare una finestra e tutto l'ambiente ha senz'altro l'aspetto di una tana da sorci o da cani, ma mi piace. E io sono sfacciato e ingrato nel parlarle così, non è vero? Forse sarebbe meglio togliermi questa cameretta che così sinceramente apprezzo e darmi l'ordine tassativo di dormire con gli altri tre. I miei compagni si sentiranno certo offesi e lei, signorina, è arrabbiata. Lo vedo e ne sono assai dolente». Lei mi disse: «Sei uno sciocchino e adesso sta zitto». E intanto sorrideva. Come sono state stupide queste vicende del primo giorno. Mi vergognai e mi vergogno ancora oggi di dover pensare a quel mio comportamento sconveniente. La prima notte dormii di un sonno molto inquieto. Sognai la maestra. E quanto alla camera, poi, oggi sarei molto lieto se dovessi dividerla con altre due o tre persone. La misantropia dà sempre un po' al cervello. Questa era la prima puntata di Jacob von Gunten di Robert Walser, letto da Enzo Turrin per Ad Alta Voce, che è a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e con Chiara Valerio, e la regia di Luigi Iavarone, sempre da riascoltare su RaiPlayRadio.it. C'è un ultimo ascolto, come immaginate, dall'album di questo pomeriggio, che era Little Games degli Yardbirds. L'ultimo ascolto è Stealing Stealing.